And now here's the present tense of the verb andare. To go. Io vado. I go. Tu vai. You go. Lui va. He goes. Lei va. She goes. You go, formal. Noi andiamo. We go. Voi andate. You go, plural. Loro vanno. They go. You go, plural, formal.